America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti in America 24 da Reno in Nevada. Mario Platero, sono qui per seguire la visita, l'inizio della visita del Presidente del Consiglio Matteo Renzi negli Stati Uniti, ma prima vorrei darvi una notizia che abbiamo avuto ieri da Washington e che, come dire, ha destato non poca preoccupazione. Sentiamo. Breaking news here: the White House, U.S. Capitol on lockdown in the wake of apparently reports that shots have been fired, according to this Senate memo in the Capitol Visitor Center. Ecco, avete sentito il newscast? Abbiamo avuto due episodi distinti che hanno creato scompiglio ieri a Washington, a Capitol Hill, alla Casa Bianca, perché sono anche capitati abbastanza vicini l'uno all'altro. Allora, cominciamo dal primo. Una persona ha aperto il fuoco all'interno del centro dei visitatori del Congresso a Washington. Ecco, questo centro è nel sotterraneo, tra l'altro super protetto naturalmente, quindi chiunque decida di commettere una qualche azione là dentro, per quanto sia un terrorista preparato, è anche un folle, perché è pieno di poliziotti dappertutto, quindi è praticamente impossibile, tant'è vero che poi i terroristi scelgono degli obiettivi soft. E dunque che è successo? Che invece qualcuno ha tirato fuori una pistola e ha cercato di sparare, ma immediatamente gli agenti lo hanno visto, lo hanno identificato, lo hanno immobilizzato, è partito un colpo che ha ferito non gravemente un poliziotto. Questo personaggio poi è stato arrestato e l'incidente si è chiuso lì. Ma lo scompiglio è continuato perché, come vi dicevo, quasi simultaneamente un individuo ha cercato di scavalcare la cancellata di ferro della Casa Bianca, dove naturalmente ci sono gli uffici e la residenza del Presidente degli Stati Uniti. È stato fermato immediatamente, non ha potuto neanche scavalcarla, questa cancellata, però i due episodi hanno scatenato le misure di allerta e di sicurezza. Dunque Washington è rimasta per qualche ora paralizzata. Dopodiché siamo tornati rapidamente alla normalità, ma questo per dirvi un po' la psicosi nella quale si vive, tanto più che a Washington alla fine di questa settimana ci saranno una cinquantina di capi di Stato e di Governo per partecipare a un vertice dedicato proprio all'antiterrorismo e soprattutto all'antiterrorismo nucleare, e il vertice per la sicurezza nucleare di cui vi ho parlato ieri. E dunque nella capitale ci sono, devo dire, misure di sicurezza totali, con ovviamente nervi a fior di pelle da parte delle forze dell'ordine. Dunque quello che è successo ieri in qualche modo è stato, se vogliamo, amplificato. Thank you so much, Mr. President. Thank you so much, and it's really an honor. Ecco, come vi dicevo, sono a Reno, sono in Nevada, a un'oretta da qui c'è un impianto dell'Enel. Il Presidente del Consiglio arriva fra poco, arriverà letteralmente fra un paio d'ore per inaugurare formalmente questo impianto. Devo dire, l'impianto è piuttosto straordinario perché parliamo di energia pulita, di energia riciclabile, renewable energy, come ama dire il presidente Obama. Però devo dire, la missione centrale di Matteo Renzi è una missione delicata, naturalmente, per la nostra sicurezza, soprattutto dopo gli attentati di Bruxelles. La missione, dicevo, è quella di partecipare al vertice nucleare di venerdì, il Nuclear Security Summit di Washington. È un vertice biennale a livello di capi di Stato e di Governo. È stato Obama che lo ha lanciato nel 2010, raccoglie oltre 50 paesi. Il problema è che ancora non ci sono stati davvero dei risultati per rafforzare il coordinamento internazionale necessario alla prevenzione di attacchi alle centrali o di furti di materiale fissili con cui i terroristi potrebbero costruire una bomba sporca. Sappiamo quanto il governo Renzi, dall'utilizzo delle forze armate per la protezione di obiettivi a rischio un po' in tutto il paese, alle operazioni di intelligence, sappiamo quanto il suo governo, dicevo, sia sensibile al rafforzamento delle misure di sicurezza, alla prevenzione di possibili attacchi su ogni fronte, perché i fronti, come sappiamo, purtroppo sono multipli. Sappiamo anche delle difficoltà europee a condividere in modo strutturato informazioni chiave per la prevenzione di attacchi. La sfida, devo dire, non è facile. Del resto, se ci pensiamo, gli stessi Stati Uniti hanno sofferto l'attacco dell'11 settembre proprio per il mancato coordinamento. Benvenuto. I actually should say welcome back. Not many people know this, but Matteo came. Ecco, io credo che Renzi, che ha un ottimo rapporto con Obama, possa svolgere un ruolo ponte per portare dei risultati concreti non solo fra i paesi extraeuropei che tantennano, ma soprattutto per l'Europa che procede, come dicevo, in ordine sparso, e anche per responsabilizzare la Russia di Putin, che lo scorso autunno ha deciso di disertare questo vertice. Diceva: perché ripetitivo? Altro che ripetitivo. Guardate cosa è successo a Bruxelles. Devo dire, in questo caso Mosca era completamente fuori palla. Ma Renzi, in questi giorni prima del vertice, ha anche un'altra missione, una missione economica. Lo abbiamo visto in altre missioni qui negli Stati Uniti. Questo che parte oggi qui in Nevada, devo dire, è forse il più completo. Non è un caso che questo viaggio coincida col debutto del nuovo ambasciatore d'Italia a Washington, Armando Varricchio, che è stato consigliere diplomatico a Palazzo Chigi proprio di Renzi. Dunque i due si intendono molto bene su quelli che sono gli obiettivi. The Stillwater plant is an excellent example of integration of existing technologies: solar PV, solar concentrated and geothermal technology. Ecco, questo è Rafael Gonzalez, che è l'amministratore delegato di Enel Green Power North America, che descrive un po' cos'è l'impianto di Stillwater. Ve lo racconterò poi domani, perché più tardi oggi andremo a visitare questi impianti che sono nel deserto, un impianto molto interessante per la produzione di energia rinnovabile, di energia alternativa. All'evento, tra l'altro, ci saranno il governatore del Nevada, Brian Sandoval, senatori, deputati dello Stato, l'amministratore delegato di Enel, Francesco Starace. Ecco, questo impianto di Stillwater ha un'unicità, perché combina, a parte la dimensione, che è uno dei più grandi del mondo, ma combina energia geotermica con un impianto solare fotovoltaico e un altro impianto solare termico. Quindi è un impianto energetico ibrido, ed è questa una delle grandi novità, ed è anche, come dire, una passerella per dimostrare quanto la nostra tecnologia sia avanzata, persino qui negli Stati Uniti, in materia di energia rinnovabile, dove l'America è sicuramente molto avanti. Domani Renzi sarà a Chicago, nel cuore del Midwest, un grande incontro organizzato da Alice dedicato alla tecnologia nelle macchine utensili, al manifatturiero, a questo settore dell'economia molto importante per noi, ma anche molto importante per gli Stati Uniti e per Obama, che ha cercato di rilanciarlo. E dopodiché a Boston, dove ci sarà una visita all'IBM e un discorso importante alla Harvard University, dove il nostro Presidente del Consiglio parlerà agli studenti. Dopodiché si chiuderà tutto a Washington giovedì sera, la missione più importante, come vi dicevo, per affrontare con decisione questa sfida globale del nostro tempo, quella del terrorismo di matrice islamica, che con gli attacchi da Lahore in Pakistan, che abbiamo visto a Bruxelles, vuole darci l'impressione di poter colpire indisturbato per trasmettere paura e confusione nella nostra vita del giorno per giorno. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che non vive più tempi difficili, resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @ Mario Platero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, devo dire, sono arrivato a Reno dei Ram. All the way to Reno. Dusted the non-believers and challenged the laws of chance. Now sweet, you're so sugar sweet, you may as well have had kicked me fastened on your sleeve. The Reno nel cuore deserto del Nevada è tutto. Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going.